Alba bagnata, dietro i vetri appannati la luce mi giunge con soffice tocco l'incanto che l'aria mi soffia via. Tiepido alone, il sospiro sul vetro disegna quel velo leggero che il mondo allontana a più di un passo da me. E mi guardi serena, e mi stringi più a te. Fisso lontano, 10 punti di fuga che l'attimo breve di un intimo spasmo disegna sul foglio davanti a me. Sola sei nata, nella culla che dondola come se mossa da mano suadente, rimango sospeso tra due realtà. E ti guardo sereno.